Amore tramonta il sole al Tahiti Bar, fra le palme avvelenate dal gas e i turisti alla fermata del tram, qui nel pigia pigia la morte grigia mi dà del tu. Sono di nuovo al verde ma non per questo mi butto giù. Mambo! Padrone al Tahiti Bar, sono un servitore riverito dal boss, segna tutto sul mio conto però, e ripenso a te sulla tua veranda alle sei di sera, la luce accesa dall'altra parte del mare blu. Ai ai ai, ai ai ai, se stasera piango domani chi si ricorda più? Italiani mambo, italiani mambo, italiani mambo stasera. Faccio il signore al Tahiti Bar, fra le donne intonacate di strass e pirelli strangolati dal frac, e le leiantoni bruciore di impopolarità, ho le scarpe strette ma non per questo mi butto giù. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, se divento ricco domani parto e non torno più. Italiani mambo stasera. Grazie.